le patrie lecce, dai piedi dell'altor, hai tu giurato. Sì, sì, con guerra di stranieri, fuggì, degni brava, degni brava, lo lessi. Lo lecce sopedì, fino alle donne, ognuno colpì. Perisca lo stranier, la morte. E se quest'uomo stranier non fosse, che vuol dir? E sopra le prodor, e sopra le prodor.